8. La messe di regali era copiosa. Tecarioga poteva ritenersi soddisfatto, a maggior ragione in un periodo difficile per scambi e commerci. Innanzitutto i colori per il volto e il corpo. Specchi di ogni foggia e misura interziati o con pietre incastonate di varie tinte. Un barile di melassa e uno di carne secca, che lo stomaco andava onorato altrettanto. Giacche di lana, calde, resistenti e di buon taglio, molto migliori di quelle di pelliccia. Tabacco da masticare di ottima qualità. Collane di wampum. Un grande corno di bue pieno di polvere da sparo. La sala principale dell'ufficio era molto ampia. Arredamento sobrio. Un grande camino centrale. Panche e sedie a ridosso delle pareti. Un imponente tavolo sul fondo dove era a uso accomodarsi Sir William. Appesi al muro, ritratti dei Johnson insieme a carte geografiche. Antica passione del vecchio. Il dipartimento era al completo. Sir John Johnson, figlio della prima moglie di Sir William, stava appoggiato al lungo tavolo, senza occupare il posto del padre. Alla sua sinistra, pancia che sporgeva da una sedia con larghi braccioli di legno, Guy Johnson, genero di Sir William e scelto da lui come successore alla carica di commissario per gli affari indiani. Pochi passi più a destra, Daniel Klaus. Aria corrucciata e braccia conserte. Il tedesco aveva fatto fortuna sposando anch'egli una figlia del patriarca e diventando commissario per gli indiani del Canada. Di fronte a loro sedeva il capitano Butler, concorrente dei Johnson nel commercio di pellicce, ma fedele alleato in politica. Vecchio compagno d'armi di Sir William, grande conoscitore dei territori del Nord-Ovest. Un nodo importante nella ragnatela di potere che William Johnson aveva intessuto con pazienza e strategia. Piccolo Abramo, sfinge seduta accanto alla propria catasta di doni, dava al quadro una pennellata diversa. Joseph e Tecarioga presero posto al suo fianco, su comode sedie. Con un gesto della mano, Sir John invitò Guy Johnson a fare gli onori di casa. Il commissario si schiarì la voce. «Fratelli», disse rivolto a Isaacem. Grazie di essere qui, in un momento così delicato per la nostra comunità. Quando le decisioni si fanno urgenti, il parere di uomini saggi ed esperti è come la pioggia su un terreno riarso. Lasciò che Joseph traducesse, poi riprese, in tono più concitato. Abbiamo notizie sicure che la milizia coloniale intende sequestrarmi e chiedere in cambio concessioni, infliggendo a tutti noi un insopportabile smacco. Le strade della contea sono diventate pericolose per noi che abbiamo sempre dichiarato lealtà a Re Giorgio. Tutto ci dice che la ribellione non è più soltanto una faccenda bostoniana. Dopo la presa di Fort Ticonderoga, le milizie Whig controllano la navigazione interna da New York a Montreal. Rischiamo di rimanere isolati. Joseph concluse la traduzione, mentre Piccolo Abramo e Tecarioga scambiavano un'occhiata d'intesa. Il Sachem di Fort Hunter era considerato uno dei migliori oratori della lunga casa e le sue parole erano molto attese, anche perché, sulla faccenda della ribellione, non s'era ancora capito come la pensasse. «Le preoccupazioni dei fratelli inglesi sono anche le nostre», cominciò. «Nessuno può entrare nella lunga casa, minacciare un amico del mio popolo e uscire dalla porta come un ospite qualunque. Al mio arrivo qui, 20 guerrieri del nostro villaggio mi hanno accolto mostrando i fucili. La dimora di Warraghyllagae è un luogo molto caro ai Mohawk, secondo soltanto al sacro fuoco di Onondaga, e come tale intendiamo difenderla. Altri 20 guerrieri sono già in viaggio verso Guy Park, poiché Guy Johnson Urak Quadira è il nostro commissario e abbiamo promesso di onorarlo sempre». Finita la traduzione, tutti si aspettavano che Piccolo Abramo continuasse a parlare. Invece si lasciò andare sullo schienale, segno che aveva terminato. E toccò ancora a Guy Johnson spezzare il silenzio. Ringraziò il Sachem per le sue parole, per la stima e la fedeltà. Poi, con la dovuta cautela, cercò di fargli capire che non erano abbastanza. «Le notizie che mi riguardano sono la foglia che brucia dentro una foresta in fiamme. Spruzzare acqua sulla foglia non spegnerà l'incendio. Se si trattasse soltanto di Guy Johnson, la sua famiglia basterebbe a difenderlo, senza bisogno di scomodare uomini come Tecarioga e Piccolo Abramo. Piccolo Abramo capiva l'inglese e intervenne, senza aspettare l'interprete. «Fratelli, noi parliamo di una foglia che brucia, ma nessuno ha visto le fiamme. Per questo ho domandato a Philip Schuyler di poterlo incontrare. È il nipote dell'uomo che portò a Londra Hendrik e la sua parola ha molto valore per il mio popolo. Se ci prometterà che nessuno intende nuocere al nostro commissario, quella promessa può essere vento che scaccia dalla valle l'odore del fuoco». Le parole del Sakem volevano rassicurare e Joseph cercò di tradurre l'intenzione, ma il vento che soffiava tra i bianchi sapeva di temporale. Un incontro tra piccolo Abramo e il generale dei ribelli non era certo una buona notizia. Il capitano Butler chiese la parola. Quando una discussione rischiava di perdere la bussola, era sempre lui a rimetterla in rotta. «Piccolo Abramo ha ragione», disse. «È sempre opportuno verificare le voci portate dal fiume e nessuno di noi avrebbe convocato qui Sakem senza prima averlo fatto. Allo stesso modo, nessuno dubitava che ci avreste aiutato a difendere Johnson Hall e il commissario Johnson. Tuttavia, vi sono altri incendi, più lontani, non tanto da lasciarci tranquilli. Il fumo e le fiamme di Lexington e Boston sono ben visibili anche da qui. Le parole pronunciate da Ethan Allen alla presa di Ticonderoga corrono di bocca in bocca. Parlare con Philip Schuyler può essere una buona idea, ma le sue promesse non possono spegnere fuochi tanto grandi. Occorre che i Mohawk decidano come arginare la minaccia prima che le fiamme arrivino a scottarli». «In altre parole, fratelli», intervenne brusco Sir John, che fino a quel momento aveva ascoltato in silenzio, «quello che vogliamo dirvi è che le guerre hanno il brutto vizio di costringere a scegliere da che parte stare». Nella stanza calò il silenzio. Guy Johnson arrossì d'imbarazzo. Joseph non tradusse le parole di Sir John, consapevole che i due Sakem avevano capito benissimo. Senza muovere un muscolo, Tecarioga cominciò a parlare nella lingua dei padri, con tono basso e cantilenante. Una manciata di secondi, poi si interruppe. Piccolo Abramo chiuse gli occhi. Era il cenno del suo assenso. La stanza si riempì di silenzio, mentre tutti, uno dopo l'altro, rivolgevano a Joseph lo sguardo in attesa della traduzione. Lasciò che il silenzio si facesse solido, materia frapposta a tenere uniti e dividere ciascuno di loro. «Cosa aveva detto Tecarioga? Se la mia casa brucia, il mio vicino è in pericolo. Troppo poco per i bianchi. Il significato era: se il problema rischia di coinvolgere anche altre persone, non è bene risolverlo da solo. Occorre consultare tutti, a partire dai più vicini, informarli del pericolo, sentire il loro punto di vista, capire se sono disposti ad aiutarli. Un carico notevole, per poche parole». Joseph parlò con voce grave e ferma. «Fratelli, il nobile saggio Tecarioga saluta e ringrazia tutti voi. Egli condivide le preoccupazioni per le notizie raccolte e per le nubi che si vanno addensando. Le terre e i beni che condividiamo fanno gola a molti. Conosciamo, per esperienza, l'avidità di certi coloni. Il fatto che alcuni dei figli abbiano deciso di ribellarsi al padre inglese è una sventura. Quando i fratelli si minacciano con le armi e le puntano contro i padri, ciò è sempre un male e va scongiurato. Per questo, Johannes Tecarioga dice che è molto importante avvertire gli Oneida, fratelli minori dei Mohawk, nostri vicini nel custodire la porta orientale della lunga casa, prima che il fuoco raggiunga tutti di sorpresa. Se la minaccia contro Guy Johnson è la foglia che brucia in una foresta in fiamme, allora quella minaccia non è soltanto affar nostro. Che le sei nazioni sappiano cosa sta rischiando il loro commissario». Joseph lasciò galleggiare le parole nella stanza, mentre piccolo Abramo e Tecarioga sorridevano appena, mostrando di aver gradito la traduzione. I bianchi si scambiarono occhiate. Joseph annusò diffidenza. Dall'inizio della ribellione, gli Oneida erano un enigma. Il loro predicatore, Samuel Kirkland, parteggiava per i Whig. Joseph lo conosceva bene. Avevano studiato insieme al collegio di Lebanon, quando erano ragazzi. Sir William lo aveva sempre considerato un sobillatore. Toccò a Guy Johnson fare buon viso a cattivo gioco. «Le sagge parole dei Sakem sono sempre benvenute presso di noi. Ciò che dice Tecarioga è molto giusto. Contatteremo le altre nazioni. per primi gli Oneida. Se mio fratello Joseph avrà cura di scrivere in Mohawk il messaggio, gli onorevoli Sachem potranno apporvi le firme. Joseph si congratulò con se stesso. Di fronte ai bianchi, anche il più nobile dei Sachem contava poco, senza un buon interprete. Scritto presso Guy Johnson nel maggio del 1775. Questa lettera è per voi, o grandi uomini e Sachem. Guy Johnson dice che sarà lieto se voi, Oneida, riceverete questo dispaccio sulla sua attuale condizione. Egli è sempre più certo delle intenzioni dei ribelli. Guy Johnson ha grande paura che i bostoniani lo facciano prigioniero. Noi Mohawk siamo costretti a una continua sorveglianza. Dunque, vi mandiamo questo dispaccio affinché ne siate informati. Guy Johnson confida che verrete a dargli assistenza e si dice sicuro che anche voi, senza sbagliare, sarete di quell'idea. Egli ha fede che non consentirete lasciarlo soffrire. Perciò vi aspettiamo. Per ora è tutto. Ci rivolgiamo solo a voi, Oneida, ma forse più avanti chiameremo tutte le altre nazioni. Concludiamo e ci attendiamo che vi preoccuperete per la sorte del nostro amministratore Guy Johnson, poiché tutti siamo una cosa sola. Johannes de Carioga, piccolo Abramo, Joseph Brandt, interprete di Guy Johnson. Joseph lesse ad alta voce, tradusse il testo della missiva cercando di riprodurre formalità e convenevoli. L'inglese era una lingua più rozza e stringata. Nel passaggio dagli occhi alla bocca le parole si accorciarono, persero risonanze, abbandonarono sul foglio parte del loro significato. Nella lingua dell'impero, a ogni causa seguiva una conseguenza, a ogni azione corrispondeva un solo scopo, a ogni situazione la condotta più adeguata. Al contrario, la lingua dei Mohawk era piena di dettagli, attraversata da dubbi, rifinita da continui aggiustamenti. Ciascuna parola si protendeva e allungava per catturare ogni possibile senso e tintinnare nelle orecchie nel modo più consono. Nella lettera Sachem e Joseph si rivolgevano agli Oneida da fratelli maggiori. Le parole erano scelte in modo da conciliare le posizioni dei Mohawk di Canajoharie e Fort Hunter. Aspettative e certezze di Guy Johnson erano descritte in modo da ribadire l'amicizia tra lui e i Mohawk senza ingenerare dubbi sull'indipendenza di questi ultimi. Guy era chiamato soltanto col suo nome, senza aggiungere altro, nessuna frase benevola a onorare la sua reputazione. Benché Sir William non fosse mai menzionato, gli Oneida avrebbero capito che si chiedeva loro un favore in suo ricordo. Da qui l'ultima frase, Joseph l'aveva scritta e riscritta, fino a ottenere il tono giusto, gradito anche a piccolo Abramo. I fratelli minori erano messi alla prova. Cosa avrebbero deciso? Avrebbero seguito le intenzioni del loro reverendo presbiteriano o prestato aiuto ai Mohawk che proteggevano l'erede di Warraghyllagay? Il richiamo all'unità delle sei nazioni stava in equilibrio su un'ordinata catasta di sfumature. L'inglese ne disperse 8 su 10. Quel che rimase convinse i bianchi. Venne chiamato un messaggero.